Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e bentornati al nostro appuntamento con la rassegna stampa dedicata alla stampa periodica non solo italiana, come sapete. Ci troviamo tutti i sabati per dare un'occhiata a quello di cui si parla non sui quotidiani. Allora, oggi in particolare si parla molto di giustizia, se ne parla da qualche giorno perché si celebrano in questi giorni gli avvii dell'anno giudiziario nelle formule più diverse. Ha cominciato il ministro della giustizia con la sua relazione alle Camere, poi alla Cassazione e oggi poi è la giornata presso le Corti. La giustizia è un argomento che naturalmente sta sempre sui quotidiani, qualche volta anche sui settimanali. Come ne parlano i settimanali? Ovviamente talvolta ne parlano per questioni diciamo più legate alla politica, tal'altra, come accade in questo numero di Famiglia Cristiana, per segnalare invece delle inefficienze che sono poi forse il vero male della giustizia italiana. Allora, da Famiglia Cristiana appunto vi segnalo un'inchiesta che è dedicata al caso, alla storia, verrebbe da dire, dolentissima e funesta del Palazzo di Giustizia di Venezia, appunto. Acqua alta in tribunale, il significativo titolo dell'inchiesta di Francesco Anfossi, Alberto Lagia e Roberto Zichitella. L'acqua alta in tribunale perché? Perché in realtà Venezia cerca da decenni di darsi una sede giudiziaria unica che dovrebbe accorpare qualcosa come 19 diverse sedi giudiziarie attualmente polverizzate tra Venezia e Mestre, spesso dislocate in edifici decrepiti e del tutto inadeguati. Non è una persona qualsiasi a dare questo giudizio su Famiglia Cristiana, è il presidente della Camera Civile di Venezia, l'avvocato Paolo Maria Chersevani. E in questa inchiesta, che racconta appunto la storia dolentissima e funesta del Palazzo di Giustizia a Venezia, ma in realtà è una storia che somiglia a molte altre storie di inefficienze e difficoltà che spesso costellano lo stato della giustizia italiana, ci sono anche dei numeri che danno probabilmente più di altri il senso del disagio che noi cittadini poi avvertiamo quando dobbiamo avere a che fare con questa parte dello Stato. Allora, ci sono soprattutto i giorni d'attesa della giustizia civile, vengono riportati, vengono ricordati in queste pagine, è un allarme che dura da molto tempo. Basta ricordare ad esempio che ci vogliono 286 giorni di attesa per opporsi al pagamento di una multa stradale, sono valori medi, quindi ci sarà come sempre chi sta meglio e soprattutto chi sta peggio. Ce ne vogliono 545, quindi abbiamo abbondantemente sforato l'anno, per un risarcimento da un incidente stradale. E poi ancora Famiglia Cristiana ci ricorda che ci vogliono più o meno 2 anni, 758 giorni per fare la media, per ottenere un giudizio di primo grado in una causa di lavoro. Saliamo ancora, per ottenere il secondo grado di una causa di lavoro i giorni diventano 814 e si arriva verso i 3 anni per avere invece il primo grado di una causa ordinaria. Quindi una lite, una questione che può interessare un'impresa così come un cittadino, vuol dire che viene decisa più o meno in 2 anni e 9 mesi, 2 anni e 10 mesi. Questo per il primo grado, perché poi spesso si ha un secondo grado. Se si va al secondo grado, le statistiche ci avvertono che ci vuole qualche cosa come 4 anni per ottenere il giudizio in un secondo grado di una causa civile ordinaria. E questo è, diciamo, solo la punta dell'iceberg, in qualche modo, di un disagio che è quello della giustizia civile, che è forse più grave del disagio che si avverte nella giustizia penale. In questi giorni sentiamo molto, molto parlare di tutele, di garanzie, di intercettazioni, però in realtà poi la giustizia veramente negata sembra proprio essere questa. Ma perché la macchina del sistema giudiziario funziona così male? Beh, devo dire che, sempre riprendendo da questa inchiesta di Famiglia Cristiana, si nota come lo stato in cui questa macchina viene lasciata, viene normalmente tenuta, non è dei più promettenti. Ad esempio, il 90% dei 1592 uffici giudiziari non risulta in regola con le norme di sicurezza. Nel 2008 sono stati stanziati 34 milioni per mettere a norma questi edifici, però ce ne vorrebbero circa 700. C'è una mancanza cronica di impiegati, personale amministrativo e di magistrati. In particolare gli impiegati sono attualmente 40.000, poco più di 40.000, manca all'ingrosso il 14% del personale previsto dall'organico. E mancano anche i magistrati, perché ci sono appunto in organico 9.153 magistrati con 956 posti scoperti. La situazione in particolare è drammatica nelle procure del sud, dove ci sono carenze di organico che in alcuni casi, parliamo ad esempio di Enna, di Gela, si vengono segnalati cali, carenze di magistrati tra il 60 e l'80%. In Sicilia complessivamente mancano all'appello 41 pubblici ministeri. Poi ci sono dei punti ancora più dolenti, se possibile, la giustizia minorile, ad esempio, altro punto ricordato dall'inchiesta di Famiglia Cristiana. Dice: per il settore della giustizia minorile il 2009 si apre all'insegna di una ormai insostenibile precarietà sul piano delle risorse finanziarie. Sono stati operati tagli che variano tra i diversi capitoli di bilancio dal 30% al 60% del budget del 2008, un budget che era già insufficiente nel 2008. E allora, dalla giustizia che non funziona di casa nostra, vediamo però che c'è anche qualche caso di giustizia che non funziona, o funziona davvero in un modo difficile da capirsi, in casa d'altri. Perché? Perché sulle Nouvelle Observateur questa settimana viene riportata una interessante inchiesta che è dedicata ai prigionieri di Guantanamo. Come sapete, tra i primi atti che il neopresidente Barack Obama ha preso c'è stata la decisione di superare questa vicenda di Guantanamo, con questi prigionieri che sono detenuti talvolta senza neanche conoscere bene il loro capo di imputazione. Questo è quello che ci racconta l'inchiesta che viene pubblicata dalle Nouvelle Observateur. Nabil, il numero 238 a Guantanamo, questo è il titolo, e si racconta appunto questa vicenda abbastanza kafkiana, come la definisce lo stesso settimanale francese, perché dice: dopo più di un anno e mezzo, per ragioni che sono oscure ma anche arbitrarie e che non permettono di conoscere il motivo vero dello suo stato di incarcerazione, Nabil Adjarab, che ha 29 anni, è il numero 238, è liberabile. Quindi da più di un anno e mezzo lui è in una condizione di poter essere liberato, però non può uscire da Guantanamo. Perché? Perché in realtà bisognerebbe trovare un paese che è disposto ad accoglierlo. Ne parlano le Nouvelle Observateur, perché questo paese potrebbe essere la Francia, ma in realtà la Francia, come riferisce appunto il settimanale, ha avviato una complessa trattativa anche con altri stati europei per capire come si possono gestire questi prigionieri da Guantanamo, prigionieri che, come nel caso di questo Nabil, non sanno neanche bene perché sono stati accusati. Perché qui, come si riferisce, nel corso di uno dei pochissimi interrogatori che sono intervenuti per Nabil, un soldato americano ha ammesso che probabilmente lui l'ha confuso con una persona che gli sembrava essere un fiancheggiatore di Bin Laden, e quindi lì in realtà non si sa neanche bene se poi questo signore sia effettivamente accusato o colpevole di qualche cosa. Il suo stato attualmente burocratico, per dir così, anche se è brutto dirlo di una persona che si trova in carcere in una condizione davvero difficile, è quello di essere liberabile a condizione che qualcuno lo accolga. Il suo paese d'origine è l'Algeria, ma in realtà la sua famiglia vive da molti anni in Francia. La situazione di Nabil, come ci segnala il Nouvel Observateur, è molto lontana dal poter essere risolta, e quindi per il momento Nabil deve ancora aspettare, pur essendo stato giudicato un prigioniero da liberare. Cambiamo completamente argomento, ma partiamo sempre da un innesco francese. Su Donna Moderna questa settimana c'è una interessante inchiesta di Antonella Trentin. Si chiama "Figlio mio, nasci pure, purché non disturbi". E si parte naturalmente dall'esempio di Rachida Dati. Rachida Dati, già ministro della giustizia uscente nel governo di Sarkozy, nel governo francese, cosa ha fatto? È tornata al lavoro, come sapete, dopo soli 5 giorni dal parto. E ci avverte Antonella Trentin: non è un caso isolato, aumentano le donne che restano in ufficio sino all'ultimo o ci tornano subito dopo la gravidanza, che programmano la nascita col cesareo, che affidano tutto il giorno al nido o ai parenti il bimbo ancora piccolissimo. Sono madri snaturate? No, oggi è sempre di più una necessità. Questo l'esordio dell'articolo di Antonella Trentin, dove poi viene riassunta innanzitutto la vicenda del ministro Dati. Il ministro Dati ha sollevato con il suo gesto appunto di rientrare dopo soli 5 giorni al ministero, 5 giorni da un parto cesareo peraltro, una precisazione non inutile, le polemiche e le proteste specialmente dei movimenti femministi, che hanno visto in questo gesto del ministro una sorta di messa in discussione delle conquiste, delle tutele che pure la maternità ha ottenuto in questi decenni. Con quel gesto lei, riferisce appunto alla Trentin, drogata di potere, e questa è l'accusa che è stata rivolta al ministro Dati, ha messo a repentaglio i diritti di tutte le altre donne che dopo anni di lotte hanno conquistato 16 settimane di congedo maternità. Eppure Rashida non è sola, sono sempre di più le signore ai posti di comando che non vogliono rinunciare né alla carriera né alla prole. Ci avverte la Trentin che questo comportamento ha anche un termine, e manco a dirlo, è inglese, si chiamano supermamme, supermom, e gli esempi sono anche quelli di Sara Palin, ma abbiamo anche esempi di casa nostra, ci sono delle atlete che sono tornate a gareggiare dopo 18 giorni dal parto, o sempre di più le donne che lavorano fino a pochissimo tempo prima del parto. Si riferisce dei due ministri anche di casa nostra, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che è rientrata al ministero dopo un mese, ma ha creato anche poi un asilo nido per i dipendenti, per non affidare sempre il neonato alla babysitter. Così anche Giovanna Melandri, che racconta: quando sono stata nominata ministro, Maddalena aveva appena un mese, è stata durissima, per fortuna avevo una tata e mio marito mi ha dato veramente una mano. La società, il commento dell'ex ministro Melandri, non permette alle donne con responsabilità di dedicarsi ai bambini. Questo è un po' la sintesi, direi, del lungo articolo della Trentin, dal quale poi si ricava anche una sorta di disagio complessivo sulla possibilità di mantenere un lavoro, una carriera soddisfacente per se stesse, e l'esigenza anche di mantenere e allevare un figlio e standogli possibilmente vicino per un tempo ragionevole, quindi non solo, come dire, nei ritagli che il lavoro concede, nel caso ovviamente del ministro ritagli di tempo che devono essere molto pochi. E si riferisce anche di qualche neomadre che, raccontando ad altre, dice: quando vado a cercare lavoro mi chiedono ma il bimbo glielo tiene qualcuno, o anche ma quando esce dall'asilo ha qualcuno che lo va a prendere, non sarebbero neanche domande legali, ma chi lo può dire a un futuro datore di lavoro. Questo un po' l'inchiesta. Antonella Trentin non prende poi posizione né pro né contro, non è difficile giudicare il gesto del ministro Dati, e in generale le donne che comunque fanno questo tipo di sacrificio di rientrare al lavoro magari in modo anticipato per poter mantenere la soddisfazione, magari anche una carriera che hanno faticosamente avviato. È un dato di fatto che la conciliazione dei due ruoli sembra diventare via via più difficile. Magazine 24. Bentornati, stavamo parlando di donne e lavoro, della difficoltà di conciliare la maternità e la propria carriera, le responsabilità sul posto di lavoro. Restiamo su Donna Moderna, che è lo spunto da cui abbiamo preso questa indicazione, per una cosa invece più frivola, se volete. Dagli Stati Uniti, ci segnala Donna Moderna, c'è un servizio online che è dedicato a chi è sposato e vuole sapere quante probabilità ha di vivere felice e contento oppure di divorziare. E questo servizio viene messo a disposizione appunto nella parte del sito internet di Donna Moderna, www.donnamoderna.com. Si avvisano le lettrici che, inserendo i dati richiesti, si può ottenere il probabile destino dell'unione. Avere figli o meno, e questa è la segnalazione più ghiotta forse, è considerata una variabile importante per la durata della coppia solo per le donne. C'è da meditarci, è il sintetico commento di chi ha redatto questa notizia. Siamo assolutamente d'accordo. Su questa notizia, però, sulla possibilità di calcolare il futuro proprio della coppia, in realtà, tramite internet, rimanda a una cosa che sta questa settimana su Newsweek, si è intitolata Googling the Future, con un gioco di parole che è poco traducibile, diciamo in qualche modo predire il futuro con Google. Google è quel motore di ricerca usatissimo in tutto il mondo, ci si trova un po' di tutto, si riesce a sapere un po' di tutto di quello che sta su internet, che si sta cercando. Cosa sta succedendo? Ci avvisa Barrett Sheridan. Sta succedendo che ci sono delle applicazioni di Google, che ad esempio Google Trends, che permettono di conoscere tutta una serie di indicazioni per il futuro, di previsioni appunto, che prima erano invece appannaggio pressoché esclusivo di alcune società di ricerca e appunto studiosi che cercavano di indovinare le tendenze specialmente dei consumatori. La cosa è molto seria dal punto di vista economico, perché come ricorda Barrett Sheridan ci sono domande del tipo: di qui a un anno il Chicken McNuggets sarà più o meno venduto del Big Mac presso i McDonald's, e i leggings, cioè questo tipo di particolare calza per le signore e signorine, saranno più vendute o meno vendute nel corso delle prossime stagioni? Bene, domande come queste chiaramente poi condizionano gli ordini milionari, miliardari delle attività economiche, e quindi conoscere questo tipo di tendenze è particolarmente cruciale per chi deve fare anche grossi acquisti come i grandi magazzini, le catene dei grandi magazzini. Adesso tutto questo sta diventando in qualche modo più popolare attraverso appunto queste applicazioni che Google mette a disposizione. Questa è la segnalazione di Barrett Sheridan che viene dal Newsweek di questa settimana. Questa settimana trovate in edicola anche 24 insieme al Sole 24 Ore. 24, sapete, è un mensile di tendenza, il magazine del Sole 24 Ore. Come ogni mese il nostro prodotto 24 è dedicato a una parola, ruota attorno a una parola chiave. La parola di questo mese è paradisi. Una parola, diciamo, ottimista, una parola anche gradita. Si parla un po' di tutti i tipi di paradisi che ci possono essere. Ad esempio, un paradiso sicuramente, o un piccolo contributo al paradiso, può essere quello che viene segnalato nel servizio di Carlotta Iesi, proprio su 24. Ci segnala un corso di filantropia che è attivo a Londra, è attivo già da diversi anni, costa $18,000 più IVA per imparare a essere generosi, cioè per imparare a far fruttare al massimo le proprie donazioni, la propria filantropia, naturalmente per chi ha la possibilità di farlo. Ci avvisa però in questo servizio Carlotta Iesi che il direttore di questo corso per filantropi, The Philanthropy Workshop, si chiama appunto il laboratorio della filantropia, Salvatore La Spada, parla di azioni non diciamo di carità pura, ma investimenti di capitali privati per risolvere problemi sociali significativi. Questo il mandato impegnativo, l'identikit dei partecipanti a questo corso, che si tiene già dal 1995, è più o meno tra i 20 e i 60 anni, quindi c'è una possibilità molto ampia di età anagrafica, c'è una leggera maggioranza di donne, e la provenienza, la motivazione, l'approccio alla filantropia variano però di caso in caso. Ci sono stati dal 1995 fino ad oggi partecipanti a questo corso di filantropia circa 200 filantropi e aspiranti tali, verrebbe da dire. Restiamo su 24, perché c'è un servizio davvero curioso. Forse non tutti sanno che è già possibile, a chi piace, farsi ibernare nella speranza di un futuro migliore. Questo servizio viene offerto, come ci avvisa Sylvie Coyeux sul numero di 24, viene offerto da diverse aziende in California, ma anche in Russia, vicino Mosca, e in più di un'azienda, diciamo, negli Stati Uniti, la più importante delle quali è appunto questa American Cryonics Society, quindi società di crionica, creata in California già nel 1969, un sogno da fantasia. fantascienza, quello di farsi ibernare per poi risorgere, ritornare quando la medicina potesse aver fatto dei passi avanti, o anche solo per la curiosità di vedere come sono cambiate le cose. Ma al di là delle possibilità che si possono aprire in questo modo, il servizio avvisa che in realtà la speranza che questo funzioni è assolutamente appunto una speranza, non ci sono evidenze scientifiche. Ci sono però i prezzi, diciamo che non è esattamente qualcosa di economico, perché il trattamento per poter essere conservati costa dai 25.000 dollari, che è la richiesta in Russia, fino ai 155.000 dollari, tutto compreso, si avverte, in California. È possibile anche scegliere di congelare solo una parte di se stessi, ad esempio il cervello, e lì allora si possono ottenere delle tariffe ovviamente più basse. Beh, una prospettiva decisamente inconsueta per aspettare il futuro, e appunto sperare nei paradisi, che è poi l'indicazione che accomuna tutti i servizi che trovate con 24 in edicola in questi giorni con Il Sole 24 Ore. Allora, parliamo ancora di previsioni, ma di tutt'altre previsioni, cose più, diciamo, alla portata di tutti. L'Espresso in edicola questa settimana ci avvisa che stiamo diventando tutti un po' meteomaniaci. Nuove ossessioni è l'argomento scelto da Sabina Minardi per intitolare il suo articolo, che ci informa tra l'altro che ci sono 1.700.000 contatti giornalieri sulle news di Sky Meteo 24, ci sono 4.800.000 visitatori dei siti internet in un mese, e così via, con numeri molto molto importanti, diciamo nell'ordine sempre delle centinaia di migliaia di persone, quando non dei milioni, per tutti i vari portali, programmi e indicazioni che ci possono dire che tempo fa. Quali risposte cerchiamo? Si chiede Sabina Minardi con la domanda più banale del mondo, e ci ricorda anche che una volta si faceva dell'ironia sul fatto che questo tipo di domande era riservato agli inglesi, si diceva che lo utilizzavano appunto per fare conversazione, e invece adesso la domanda su che cosa ci aspetta per i prossimi giorni, per le prossime settimane dal punto di vista meteorologico, è diventata una curiosità diffusissima, e pare che non riusciamo più a farne a meno. Questo quando vuoi. Allora, torniamo per un momento in Francia, ancora su Le Nouvel Observateur. A proposito di tecnologie nuove, c'è una segnalazione dalla sezione high tech che è intitolata, avete detto, streaming. Come sapete, i francesi preferiscono tradurre in realtà le parole che riguardano l'informatica e non utilizzare i termini inglesi come invece facciamo noi, quindi la domanda vuole essere anche un po' provocatoria. Ci avvisa questo breve servizio di Colette Mangy che nel mentre che il Parlamento sta discutendo, sta legiferando sul downloading, cioè la possibilità di scaricare file, scaricare film, canzoni e quant'altro, gli internauti sono già al passo successivo: la musica gratuita in linea, in continuo. Streaming, appunto, questa è la parola con cui anche coloro che si seguono abitualmente internet conoscono questa pratica. Di cosa si tratta? Si tratta di un modo per cercare di porsi più avanti di quella che sarà la prossima stretta normativa in Francia sul downloading illegale, sullo scarico di file non consentito. Dice: il fenomeno musicale di quest'anno, dice Colette Mangy, si chiama streaming, si può tradurre come lettura in continuo, e consente di collegarsi a siti che mandano in onda appunto brani di canzoni senza doverli per questo scaricare. In questo modo che cosa succede? Che si può aggirare quello che sarà il futuro limite che invece stanno pensando di imporre. Il limite, detto, riassunto qui molto brevemente sempre dalle Nouvelle Observateur, è riferito a una legge battezzata come creazione e internet, diritto d'autore e internet potremmo azzardare, che farà diventare pesantemente sanzionati tutti i procedimenti di downloading, di scarico di file, di utilizzo di file non legali. L'internauta, cioè il navigatore, riceverà una mail e una lettera raccomandata che lo avvisa del fatto che è stato pizzicato a scaricare file in modo non consentito, e se dopo 3 avvisi di questo tipo il navigatore insisterà, allora gli verrà privato, gli verrà tolto l'accesso alla rete e anche alla sua posta elettronica. La sanzione che viene comminata dalla normativa ancora in discussione è quella che va da 1 mese a 1 anno a seconda della gravità dell'atto di pirateria. Quindi questo è il modo in cui in Francia stanno pensando di reagire alla pirateria informatica. Bene, con questa segnalazione abbiamo concluso il tempo a disposizione per questa mattina. Io ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini per l'assistenza al programma, Giacomo Spunta per la regia, e vi do appuntamento a sabato prossimo.